9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori di Radio 24, eccoci alla versione di Oscar oggi e questo primo marzo, auguri a Sant'Albino. E io comincio rapidissimamente con i soliti cenni sul perché teniamo gli Oscar. Tra l'altro vi annuncio che entro un paio di giorni aprirò un referendum tra voi ascoltatori, nel senso che sul sito della radio, poi vi indicherò il preciso dove, inizierò a chiedervi se, secondo la maggioranza di voi che vorranno rispondere, dobbiamo continuare a tenere i Doors in apertura e chiusura della trasmissione. E ripeto, lo faccio al di là del perché mi piace Jim Morrison, per segnalare che dal nostro punto di vista la crisi di credibilità e sostenibilità dell'euroarea non è chiusa. Questa è la ragione per cui molti mesi fa iniziamo con questo The End. Io rimango di quest'idea, ma mi sono reso conto che molti tra voi, al di là del fatto che sono ottimisti per natura, e rispetto questo, sono convinti invece che oramai il peggio è alle spalle, che Monti ci ha risolto tutto, che noi siamo coloro che abbiamo insegnato all'Europa con Monti e Draghi come fare, e che quindi oramai siamo su un tracciato già segnato di recupero di credibilità. Io credo che non siamo stati il detonatore, non è esploso niente, ma il problema di fondo della credibilità, della sostenibilità di questa moneta comune a mercati separati e con i politici che chiedono una banca centrale che metta a mano al torchio monetario e continui a tenere i mercati separati, non possa reggere per definizione. Ma detto questo, sentiamo come la pensate. Quindi pronti a votare nei prossimi giorni? Domani vi comunico l'indirizzo. Oggi, per dire, a conferma del fatto di ciò che non trovate sugli giornali italiani, ma che a mio giudizio conferma il perché tenere The End dei Doors, vi dico solo due cose. Lo scoop del giorno è quello del Frankfurter Allgemeine, perché Frankfurter Allgemeine c'ha una lettera esplosiva del presidente, il governatore della Bundesbank, in cui Jens Widmann chiede a Mario Draghi, è una lettera riservata al presidente della BCE, di cambiare il meccanismo di Target 2 è la piattaforma finanziaria attraverso la quale si fanno prestiti e swap tra banche centrali dell'eurosistema, ed è la piattaforma sulla quale tutti coloro che accusano la Germania di non essere esposta e di non aver aiutato l'euroarea dimenticano che siamo a circa 600 miliardi di euro di esposizione della Bundesbank nei confronti delle altre banche centrali dell'euroarea. Tutti dimenticano questo fatto, e a partire da questo il presidente della Bundesbank si rivolge al presidente della BCE chiedendogli un impegno esplicito di BCE per riequilibrare questo sbilancio, per collateralizzare non più con il metodo seguito nelle aste di liquidità come quella di ieri e quella di gennaio, che tutti indicano come la vera svolta di credibilità dell'euroarea. Sapete che anche ieri 800 banche europee si sono messe in fila, hanno preso 530 miliardi, 100 banche erano italiane, ne hanno presi un quarto del totale, solo le banche italiane. Il presidente della Bundesbank chiede di tornare al regime precedente, e su questo, sui giornali tedeschi, c'è una bella fila di commenti molto critici nei confronti di Draghi. Ai tedeschi evidentemente il sistema del TRO, come si chiama, il programma di rifinanziamento a bassi interessi triennali e a collaterali laschi, per cui si può dare praticamente in garanzia qualunque cosa, anche rottamata, che non ha valore, non piace per niente. E da questo punto di vista trovate sia un commento a fianco alle notizie riportate sul Frankfurter Allgemeine, trovate sempre sulla Frankfurter Allgemeine un altro editoriale firmato Hans Werner Sinn, che è l'uomo grazie al quale si è aperto in Germania il dibattito su Target 2 e la necessità di riequilibrare le esposizioni tedesche nei confronti dell'euroarea. E trovate per esempio su Deutsche Zeitung editoriale di Alexander Hageluken, che dice che Draghi non si comporta come un classico banchiere centrale, ma si comporta come un politico. Questo è l'editoriale che trovate sulla, su Deutsche Zeitung, come Alan Greenspan, che per anni, scrive Alexander Hageluken su Deutsche Zeitung, ci ha tutti illuso e drogato con i suoi bassi tassi di interesse, sostenendo che erano sostenibili, ma anche le aste di liquidità a basso collaterale e basso tasso di interesse sono non un rimedio strutturale, ma semplicemente una presa di tempo che compiace i governi. Questa è l'accusa che inizia a diventare esplicita sui giornali tedeschi nei confronti del presidente della BCE. Qualche altro breve osservazione: oltre a quello olandese, anche il Parlamento finlandese ieri ha approvato il secondo bailout della Grecia. La Commissione europea ieri, si legge sul Paese, ha resistito alla prima domanda ufficiale, sia pur riservata, avanzata dal governo spagnolo per un abbassamento degli obiettivi di deficit, che sono mancati per più di 2 punti di PIL nel 2011, come abbiamo visto, soprattutto in ragione delle autonomie. Per la prima volta, anche questo è Reuters che lo riporta, il governo olandese inizia ad avvisare i suoi elettori del rischio di perdere a propria volta, come è già capitato per la Francia mesi fa, la tripla A. E infine la column di Wolfgang Munchau su Spiegel Online, quindi l'ho trovata nel sito inglese del settimanale tedesco, nella traduzione in inglese, e secondo Wolfgang Munchau l'estensione dell'SM come dotazione finanziaria arriverà, ma è scettico sul fatto che sia così saggio poi pensare a estensioni intorno al trilione di euro, al trilione e mezzo di euro. Come vedete, non sono solo a rimanere euroscettico, ma convinto che i problemi di fondo sono altri. E a maggior ragione, quindi, ecco il tema che abbiamo scelto oggi. In questi 2 giorni a Roma, ieri e l'altro ieri, si è tenuto un convegno organizzato con la convergenza di 4 think tank, tra cui anche Bruno Leoni, Libertà Eguale, Economia Reale del professor Baldassare, ma soprattutto si deve al fatto che sono stati gli amici di noisefromamerica.org. Ciascuno di questi think tank, come sapete, ha il suo sito, vi rinvio lì, c'erano le immagini streaming, potete vedere l'intero svolgimento del convegno. Ma questo convegno è nato soprattutto poi dall'idea degli amici di Noise from America, e sono con noi stamane il professor Michele Boldrin, che è direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University in St. Louis, e il professor Sandro Brusco, che insegna alla Stony Brook University. Sono con noi collegati, saluto Boldrin, buongiorno. C'è Boldrin? Sì, credo che ci sia, spero che ci sia. C'è Brusco, buongiorno. Io ci sono, sì. Ecco, mi senti? La linea di Michele Boldrin, assicuratevi solo che ci sia, perché Michele Boldrin non mi ha risposto. Allora, in questi giorni, questo convegno dal tema un po' gattesco, sia nero, sia bianco, sia grigio, purché il gatto acchiappi il topo, ha messo al centro dell'agenda un po' di relazioni su numeri che attestino i problemi di fondo del nostro paese. Se sia vero che abbiamo svolto i compiti a casa e a questo punto con la linea della rigidità fiscale tutto è assicurato, basta continuare così. Tra l'altro, ieri atto di indirizzo fiscale del governo in cui si chiarisce che dismissioni pubbliche del patrimonio non ce ne sono all'ordine del giorno, abbattimenti della pressione fiscale e della spesa in contemporanea energici non ce ne sono all'ordine del giorno. Vi rinvio all'atto di indirizzo, trovate il testo sul sito del Sole 24 Ore. Nel frattempo, ancora in decreti come quello di venerdì di semplificazione fiscale, pochi se ne sono accorti, ma noi siamo passati dal bollo su conto titoli, la mini patrimoniale sul conto titoli che era disposto per tutti, a una patrimoniale, mini patrimoniale, come sempre sono tutte mini, ma questa volta è proporzionale alla giacenza sui conti non correnti normali, ma sui conti di deposito, quelli a più alta remunerazione, quelli praticamente ING, Bank, Banca, di Mediolanum e così via, con un'aliquota dello 0,13% perché ha più di 5.000 euro di giacenza media ed è proporzionale a quello che ci avete. Sono tanti piccoli segni quotidiani che avvengono del segno della politica fiscale di questo governo, che è quella di restrizione, restrizione, restrizione, diminuzione di spesa e cessioni. Nessuno da questo punto di vista. Allora, nelle relazioni che sono tenute, la prima era di Michele Boldrini e di Sandro Trento, e poi sono stati toccati in molti temi, la diseguaglianza, che è la relazione che ha fatto il professor Sandro Brusco, che è con noi, poi la formazione, le liberalizzazioni e così via. Obiettivo, come sta messo il paese? E comincerei con Michele Boldrini. L'abbiamo ristabilito il collegamento, pronto? Buongiorno Michele, sei con noi? Sì. Buongiorno, ecco. Sentito tutto. Allora, perfetto. Allora, adesso? Iniziamo. Sì, ti perfetto, sentiamo. Iniziamo con proprio con la tua relazione, la tua e quella di Sandro Trento, in cui sei partito dicendo: il problema è la produttività del nostro paese. Primo grafico in cui facevi capire con l'andamento della produttività italiana rispetto a quello degli altri quattro maggiori paesi europei, e poi hai sfatato una serie di luoghi comuni, per così dire, su quale sia alcune delle cause, delle concause di questa roba. Possiamo partire da questi punti. Per esempio, uno dei luoghi comuni del problema italiano è che in questi anni il reddito che hanno perso i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, se l'è preso l'impresa. A un certo punto, all'inizio della relazione, tu fai vedere un grafico nel quale si scopre che non è così. E invece com'è? Beh, credo precisamente, sì, quello è uno dei punti. Il ragionamento che con Trento abbiamo fatto, poi che ho condiviso con gli altri due organizzatori, che Sandro ovviamente, che saluto, e Irinagli, che pure ha collaborato con Sandro nella sua relazione, era che molte delle cose che ci sono da dire a livello aggregato sulla crisi italiana sono purtroppo note e quasi banali agli addetti ai lavori, anche se purtroppo sono assenti al dibattito pubblico italiano, si continua a parlare di altre cose. La crisi è di produttività ed è generalizzata, la non crescita, addirittura decrescita in certi comparti, dei salari e dei redditi del lavoro dipendente, è dovuta da un lato ovviamente al fatto che la produttività crescente, alla produttività non crescente non può corrispondere un salario continuamente crescente, anche se è cresciuto. Infatti uno dei dati che abbiamo mostrato, che tutti sanno ma che si continua a scordare, è che ormai abbiamo il record del costo del lavoro per unità di prodotto. E il fatto che il reddito disponibile, cioè quello dopo la tassazione che arriva in tasca alle famiglie, il reddito al lavoro dipendente, non sia cresciuto, sia anzi diminuito, non è dovuto per niente a un aumento del reddito di capitale, che ha oscillato negli ultimi 30 anni in Italia come quota del reddito nazionale più di un punto percentuale, ma invece una crescita drammatica di circa 8 punti del reddito netto dello Stato, del reddito disponibile netto dello Stato, il quale ha aumentato la pressione sostanziale drammatica dopo la crisi del 92, l'ha mantenuta a quell'alto livello facendo la crescita addirittura un po' fino al 2007-2008 e adesso, aumentando di nuovo, come giustamente dicevi tu, questo governo che fa delle cose necessarie, che abbiamo discusso dopo, ma purtroppo io condivido tasse, niente tagli alla spesa, niente dismissioni, eccetera. Allora c'è una successiva slide che proprio paragona l'andamento negli ultimi 15 anni, dagli anni 90 a metà anni 90 a oggi, del reddito disponibile delle famiglie rispetto al reddito disponibile per le amministrazioni pubbliche. Si parte da base 100 per entrambi una quindicina d'anni fa e si vede che quello delle famiglie stenta ad arrivarsi verso quota, da quota 100 di allora verso quota 150, ma quello invece, il reddito disponibile per le amministrazioni pubbliche, passa da quota 100 di allora a supera da due anni fa quota addirittura 250, poi scende un pochino e adesso è di nuovo in risalita verso quell'andamento. Quindi una discrasia degli andamenti, reddito disponibile famiglia e quella dell'amministrazione pubblica, che dà l'idea qual è il problema fondamentale. Perché a un certo punto nella relazione voi dite: il problema fondamentale, vedendo tutte queste cose, ohimè, è lo Stato. Ma questo però nel mainstream del dibattito pubblico italiano, lo sai meglio di me Michele, è molto azzardato dirlo, perché la gente inizia a grattarsi la testa e dice: no, il problema non è lo Stato. E purtroppo lo so, però Oscar, tu sei uno caso di dirlo, io e continueremo a dirlo anche noi e ci sono anche degli altri, cioè non si guardano i fatti. Se uno guarda i fatti e smette di ideologie e affermazioni a priori, il fatto è quello: lo Stato italiano è il, come l'abbiamo chiamato, lo svampo del paese. O ce ne rendiamo conto, è un Moloch che mangia risorse sempre di più, viene da ridere a crepapelle tutte le volte che senti questo, ma ormai questo era sul liberismo imperante, l'arretramentazione del pubblico, cioè sono pazzi, cioè dove vivono? Ripeto, il Moloch continua a mangiarsi sempre più risorse e purtroppo dall'altro lato servizi che dovrebbe produrre. Ecco, la qualità del collegamento è caduta e a questo punto andiamo su Sandro Brusco. Nel prosieguo della relazione iniziale di questi due giorni ci sono un'altra serie di slide che dicono ci sono tanti altri luoghi comuni del dibattito pubblico ed economico italiano che vale la pena di respingere. Uno di questi è appunto che il problema della crescita bisogna risolverlo con l'euro, gli eurobond in particolare. C'è tutto un fiume di pensiero italiano che da anni dice bastavano gli eurobond e innalzavamo miracolosamente la quota di investimenti sul prodotto, cosa che altrimenti tagliandolo, comprimendo la spesa per investimenti come siamo stati obbligati a fare perché quella corrente è più difficile da tagliare, abbiamo pregiudicato la crescita. Un'altra cosa è concentriamoci tutti nel mezzogiorno che ha bisogno di politiche differenziate e così via, se ne elencano molti di questi punti, dopo aver anche essersi un po' grattati la testa sul fatto che molti siano rimasti sorpresi di come siano perfettamente compatibili i bassi salari costo comparato della pura componente lavoro oraria italiana e degli altri paesi, che vede il costo lavoro per unità di prodotto nostro invece a livelli record. E il problema è che non è la pura componente della retribuzione netta percepita quella che fa la differenza, il problema è che sul lordo la differenza è l'abnorme quota che si prende di cuneo fiscale lo Stato. Poi Brusco nel pomeriggio, dopo aver identificato questo problema, con te e la tua relazione la riflessione si è spostata sulle diseguaglianze, che sono un punto altrettanto fondamentale del dibattito pubblico italiano, tra chi dice per esempio questo 10% più elevato di famiglie che detengono di reddito disponibile, che hanno il 45-46% del totale dello stock della ricchezza delle famiglie, è il vero problema. Io aggiungo sempre negli altri paesi avanzati quel decile più alto ha una percentuale più alta, però nella vostra relazione il contributo, per così dire, a chiarire un po' di luoghi comuni e le conclusioni quali sono state, cosa fare per affrontare il problema delle diseguaglianze nel nostro paese? Sostanzialmente bisogna crescere, il problema se uno guarda i dati un po' attentamente vede che i poveri in Italia sono sostanzialmente concentrati nelle famiglie monoreddito, in cui il capofamiglia ha un basso salario, tipicamente perché ha un basso livello di istruzione. Questo, se guardiamo all'indicatore, che non è perfetto, però è un indicatore che viene spesso usato, dell'indice di povertà, ossia quante famiglie hanno un reddito che è inferiore a metà della mediana, insomma stiamo parlando di poche migliaia di euro. Il dato complessivo per il paese è di 14,4, mi sembra, 14, qualcosa. No, 17 nel caso del reddito pro capite. Nel caso delle famiglie monoreddito, questo numero va oltre il 30%. Il problema della povertà è concentrato lì, nel senso che è un problema massiccio. L'Italia continua a essere un paese sia diseguale sia povero, sia con un livello relativamente alto di povertà. Continua ad essere un paese in cui sostanzialmente non si può realmente pensare di risolvere il problema della povertà puramente a botta di distribuzione, pigliando i ricchi e dando ai poveri, per usare uno slogan spesso usato. Semplicemente non ci sono le risorse per fare questo. L'unico modo per incidere realmente sulla povertà è quello di fare in modo sostanzialmente che le tante famiglie monoreddito che sono povere diventino famiglie in cui entrano due redditi e che quindi escono dalla trappola della povertà. Lo Stato italiano non fa quasi nulla per questo, nel senso che lo Stato italiano fa cose eccellenti da un certo punto di vista, per eliminare la povertà nei ceti più anziani. La povertà tra gli ultra 64 anni è veramente limitata, è meno della metà della media nazionale, e questo grazie a un sistema pensionistico che almeno finora è stato estremamente generoso. Il non fa quasi nulla per eliminare la povertà tra le giovani coppie che lavorano e che hanno basso reddito, il che purtroppo si riflette anche in una notevole incidenza della povertà tra i minori, perché queste sono famiglie con bambini di solito che hanno questo. Come si interviene? La nostra proposta è un pochino eterogeneo, eterodosso, almeno nel panorama italiano, perché quando si pensa a questi problemi di mancanza di lavoro, di famiglie povere dove non entra sufficientemente reddito, le politiche a cui normalmente pensano i politici romani sono quelle della domanda: mandiamoli un bel po' di sussidi, facciamo la banca del sud che elargisce un po' di danari, diamo un po' di sussidi nella tale in paese, nella tale regione dove sembra esserci carenza di domanda di lavoro, e risolviamo il problema. In realtà c'è anche un problema di offerta di lavoro, nell'offerta e nella domanda da soli non bastano, però a nostro avviso si è troppo pensato alla domanda di lavoro e non si è pensato all'offerta. Offerta di lavoro significa una cosa sola, che adesso ci sono tante persone, soprattutto donne, soprattutto nel mezzogiorno, che semplicemente decidono di stare fuori dalla forza lavoro. Questi non solo non lavorano, ma nemmeno cercano lavoro. Sono numeri impressionanti, il numero di donne nel sud che non cercano lavoro nel modo più assoluto. Stiamo parlando di 2/3 della popolazione all'incirca della popolazione delle donne tra 15 e 64 anni nel mezzogiorno. L'unico modo per intervenire nel breve periodo, secondo noi, è di intervenire con un processo massiccio di sgravi fiscali per questa gente, per convincerle a cercare lavoro, perché teniamo conto che se una donna trova lavoro nel mezzogiorno, si mette a cercare lavoro prima, perché questa è la precondizione, e lo trova, non solo, tanto per cominciare, perde 690 euro di detrazione del coniuge che il marito prende nel caso se ne stia a casa. In secondo luogo, ci paga le tasse normalmente, che va bene, se guadagno un reddito inferiore agli 8.000 euro sono zero, però se comincia a guadagnare un reddito diciamo di 15.000 euro cominciano a diventare 2-3.000 euro. Ora, almeno questo tipo di disincentivo andrebbe eliminato. Insomma, ricordiamoci che non tutti i posti di lavoro che si creano devono essere i bei posti di lavoro che ci sognavamo nell'Italia degli anni 60 e 70, in cui si entra in fabbrica, si lavora per 8 ore, o negli uffici si lavora per 8 ore al giorno. Magari i posti di lavoro di cui c'è bisogno sono posti d'assistente parrucchiera, sono posti part-time come commesso in un negozio, non lo sappiamo, non possiamo avere la pretesa di capire esattamente che tipo di lavoro la gente vuole fare, che tipo di lavoro l'economia ha bisogno. Per cui semplicemente riduciamo le imposte per chi cerca lavoro e soprattutto per i redditi più bassi, e in questo modo avremo dei risultati realmente incisivi sulla povertà. La nostra proposta è quella, anche per venire incontro alle esigenze di bilancio, perché non è che questo sia un periodo in cui si può con gli incentivi fiscali scassare il perseguimento dell'avanzo primario. Esattamente, comunque l'avanzo primario va tenuto fermo, e siccome, come hai fatto notare tu prima, di riduzione della spesa di vendita del patrimonio non sembra che ci sia molta traccia, qua bisogna fare un po' di attenzione anche a fare delle proposte che siano compatibili con il quadro di stabilità finanziaria. E non demagogiche, certo. E non demagogiche. Quindi la nostra proposta è quella di semplicemente permettere, fammi fare un brevissimo discorso su come funziona il sistema delle detrazioni. Se tu sei un lavoratore dipendente, teoricamente paghi una certa aliquota IRPEF fin dal primo euro che guadagni, però lo Stato ti permette di portare in detrazione 1.840 euro, il che sostanzialmente significa c'è un'aliquota zero fino a 8.000 euro. Ora, se tu non lavori, quei 1840 euro li perdi, ovviamente. Questa è una deduzione fiscale che non può essere utilizzata nel caso non ci sia reddito. Sei un incapiente, come si dice? Sei un incapiente, sono sempre questi termini bellissimi che compaiono. La nostra proposta è semplicemente di dire: guarda, tu quei 1840 te li puoi portare l'anno prossimo, se non lavori 2 anni te lo porti per 2 anni, quindi tra i 1680 e così via. Che cosa serve tutto questo? Beh, serve a far sì che più resti fuori dalla forza lavoro, che è il vero problema che noi abbiamo. Noi abbiamo frotte di donne che se ne vanno dalla forza lavoro dopo i 40 anni, diciamo, e che ci restano, che per qualunque ragione, c'hai un figlio, devi curarlo, e per qualunque ragione poi non cercano nemmeno di rientrare. Quindi la nostra idea è: va bene, tu stai fuori 3 anni, 4 anni dalla forza lavoro, immediatamente ti viene dato un credito consistente di diverse migliaia di euro che tu puoi scontare verso le tasse future. Perfetto. Allora, come abbiamo cercato di sintetizzare, lo so, molti dicono si capisce poco, eccetera, eccetera, però ogni tanto bisogna dire che i problemi complessi hanno bisogno di soluzioni complesse, non di parole magiche. Dire il problema è lo Stato per la componente che assorbe di più quantità di reddito in questi anni, in maniera crescente nel nostro paese. Dire i problemi alla crescita, alla produttività sono sul versante dell'offerta, non con la domanda, con strumenti pubblici. Dire ci poniamo anche il problema delle diseguaglianze, siccome sono concentrate in famiglie monoreddito, ecco una proposta. Sul versante dell'offerta, con incentivi fiscali, non scassa bilancio, fatta col meccanismo delle detrazioni attuali, però proiettabili nel tempo, anche se non si lavora, perché altrimenti si perdono quelle detrazioni, è una maniera alternativa rispetto a come viene presentato oggi nel dibattito il problema italiano. Risposta da alcuni ascoltatori: ma cosa dite quando gli italiani continuano a essere quelli che lavorano molto di più degli altri? Allora, sì, c'è anche una slide su questo, è verissimo, per il lavoratore medio dipendente italiano la quantità di ore lavorate annue continua a essere più vicina alle 1900 che alle 1800 annue e non ha subito analoghe diminuzioni verso il basso fin verso quasi quota 1500 che hanno interessato paesi come la Francia, anche la stessa Germania, la Gran Bretagna, la Spagna. Resta il fatto che quella media deve comprendere nella vostra testolina il fatto che riguarda i lavoratori dipendenti italiani, cioè quella parte di italiani che effettivamente partecipano al mercato del lavoro, e quella parte è molto più bassa percentualmente di quella che invece partecipa al mercato del lavoro in tutti questi altri paesi che ho citato, per essere chiari, altrimenti commettete l'errore di scambiare il molto lavoro che continua a fare la parte dell'Italia dipendente, dell'Italia legale, dimenticandovi che poi c'è una seconda Italia in grigio, in nero, anzi, e una terza Italia che è quella illegale. Ecco come il tantissimo lavoro, virgola, a basso salario, virgola, perché con alti contributi e tasse sopra, virgola, dell'Italia legale, ufficiale, è quella che paga il conto di tutto, di ciò che si prende lo Stato, come ciò di chi si prende la parte grigio nera, come quella illegale. Di fronte a questo vi dirò che oggi che c'è la protesta, il Professional Day delle libere professioni, vedere questa protesta contro il governo quando nel decreto liberalizzazioni tutto è rimasto praticamente come prima, tutto come prima, l'obbligo di preventivo che era nella versione originale del decreto è caduto, uno. Tanto per essere chiari. Due, la parte del tirocinio che cominciava all'università pagata per impedire lo scandalo e lo schifo di migliaia e migliaia di avvocati giovani sfruttati negli studi, come pagati meno delle segretarie, senza nessuna prospettiva di diventare associati o senior nello studio, è caduta la parte del tirocinio pagato. Anche in questo hanno stravinto le professioni. Vedere loro che protestano oggi, mentre ai pensionati italiani sacrosantamente, giustamente, questo governo, ma molto amaramente, ha dovuto dire da un giorno all'altro: dovete lavorare anni in più prima della pensione che avevate a portata di mano, dà l'idea di una Repubblica che vede figli da una parte e figliocci dall'altra. Finché sarà così e finché non vi sarà chiaro a molti di voi che il problema è lo Stato e che si può, con proposte alternative, non demagogiche, dare una risposta a chi sta peggio, sarà sempre la parte che lavora dell'Italia ufficiale a pagare il conto dello Stato e delle altre due Italie. Apriamo gli occhi! Eccoci tornati qua in studio, stiamo aspettando di ristabilire il collegamento con Michele Boldrini, intanto sentiamo come la pensa Andrea da Cesena. Prego Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che lo Stato italiano indubbiamente è una scelta, però noi lavoratori dipendenti e pensionati abbiamo anche un'altra spada di Damocle che debito sulla nostra testa, perché come diceva Istat, prima della crisi del 2008, negli ultimi 15 anni precedenti, i redditi degli imprenditori e dei liberi lavoratori, cioè i professionisti, sono cresciuti molto più dell'inflazione, mentre i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sono cresciuti molto meno dell'inflazione. Per cui c'è stato uno spostamento del reddito totale da lavoro dipendente verso il lavoro autonomo, ma contemporaneamente è molto ampio. Ma contemporaneamente non si sono avuti investimenti adeguati, cioè gli investimenti invece di crescere sono calati. Questo vuol dire che gli Andrea, ti fermo su questo perché trovi su Panorama un'analisi che ho fatto esattamente le tre componenti della questione appunto basse retribuzioni italiane comparate rispetto a quelle di altri paesi. Tabella Eurostat poi corretta con qualche aggiornamento di dati più recenti dell'Istat, ma in sostanza la faccenda è quella. La prima componente è comunque il peso cuneo contributivo, imposte e contributi Stato rispetto ai paesi concorrenti. La seconda componente, c'è una seconda componente che riguarda la bassa produttività e quindi come ci si è comportati nel tempo rispetto all'inflazione. Fino a Scala Mobile e Patto Natale 93 i sindacati si sono avvantaggiati e i dipendenti si sono avvantaggiati con l'inflazione nel gioco tra nominale e reale sulla massa retributiva lavoratori dipendenti italiani. Da allora pagano pegno al contrario, perché con l'inflazione programmata rispetto alla quale quella reale italiana, paese a bassa produttività è più elevata di quelle dei paesi concorrenti, l'effetto accumulato è quello di decimale di punto perso ogni anno, di aver perso, come dici tu esattamente, molti punti di aumento rispetto al CPI, l'andamento dei prezzi al consumo nel nostro paese, rispetto a invece a come si è tenuta in linea la retribuzione dei dipendenti in quegli altri paesi. Poi c'è una terza componente, fissando il salario come facciamo noi nei contratti nazionali di categoria, in realtà noi abbiamo una determinazione pattizia tra sindacato e imprese centralizzate, in questo il sindacato è tenuto negli anni, si è adeguato negli anni a fare un livellamento delle basi retributive nei diversi contratti di categoria sulla base, per così dire, dei settori meno produttivi, per evitare che gli iscritti a questa categoria rispetto a quella vedessero degli andamenti molto disomogeneo tra loro, con un settore molto più premiato di altri. Questo meccanismo, che è un meccanismo collusivo da paese poco produttivo quando c'è contrattazione centralizzata, vede i sindacati in difficoltà, i dipendenti perdere, soprattutto nelle parti più produttive di lavoro, ci sono alcune tipo i chimici, gli alimentaristi eccetera, che da anni sono molto più avanti di quello che sembra chissà quale scandalo in Fiat, e vede le imprese beneficiarie perché pagano meno, quindi io non è che salvo le responsabilità di nessuno. Michele Boldrini è tornato con noi collegato. In conclusione, fatte queste analisi che abbiamo tentato di sintetizzare, come si evita però nel dibattito italiano secondo te l'accusa A di sembrare nostalgici del passato, B di disconoscere comunque i meriti del governo attuale, C di trovare interlocutori, perché sono temi un po' scivolosi e che non hanno un grande seguito a quanto pare fino a questo momento. Secondo te come si può fare, Michele? Ma sperando che la linea non cada di nuovo, perché qui siamo di fronte a la ritratta di servizio. Sono in hotel di Roma, continua a cadere la linea, mi scuso con gli ascoltatori e con te. Ma il domanda non lo so, provandoci, noi facciamo la tua parte, tu fai la tua, chi può fare la tua, bisogna continuare a ripetere fatti. Ovviamente bisognerebbe riuscire ad andare anche un po' più in là, fare delle proposte, riuscire a far capire che queste proposte pagano. Qui bisogna riuscire a rompere, la crisi può servire, è quello che noi abbiamo chiamato il collante che tiene in un'alleanza impura fra una parte dei produttori, chiamiamoli in generale il lavoro autonomo un po' in genere, e della produzione delle tasse degli altri, e che è quella che ha governato il paese obiettivamente ormai da 30 anni. Se si combinare questa cosa facendo saltare un po' di spesa pubblica, io credo che la possibilità perché si crei una coalizione sociale e politica che vuole il cambiamento del paese, che vuole la sua modernizzazione, ci sia. A questo proposito il governo Monti può servire, Monti, la metafora che abbiamo usato è che sta cercando di far calare più rapidamente la febbre, però con una cura che è una cura che fa calare, rischia però di ammazzare il corpo del paziente. Sta replica quanto avvenne nella seconda metà degli anni fondamentalmente per garantire l'accesso all'euro, prima per uscire dalla crisi del 92, la svalutazione, guadagnarsi un minimo di parametri rispetto dei parametri massimi per l'accesso all'euro. Quello indebolì, a mio avviso, il corpo del paziente. Curò la febbre allora, ma non fece lo seguito alcuna riforma strutturale. L'effetto l'abbiamo visto nella mancata crescita e il declino degli ultimi 10 anni. O di Monti dico Monti per l'intervento, fa solo quello, io credo che saremmo punto a capo. E quindi la cosa su cui insistere, la cosa su cui credo la mia grande mancamento paradossalmente è che Confindustria e i sindacati riescano a capire, perché nella misura in cui rappresentano il lavoro dipendente, non solo il lavoro produttivo, la parte produttiva del paese, se riescono a fare questo salto culturale, i loro interessi sono molto più allineati e convergenti di quanto credano. E che non è Confindustria la controparte di CGL, CGL e CISL la controparte di Confindustria, alla fine è lo Stato, è lo Stato e i gruppi sociali parassitari, forse c'è speranza. Se non riusciamo a fare, non è che noi tre o altri amici abbiamo la speranza e la capacità di fare questo. Queste sono cose che devono passare attraverso una rottura di equilibrio nel paese. Io sono molto d'accordo con questo, eppure essendo questa radio Confindustria, dico sempre e ripeto perché sia chiaro, non è una specie di caveat obbligato, ma io sono convinto, l'analisi di come funziona il tessuto delle aziende nel nostro paese ci obbliga a dire che con quella parte del paese che vive a bassa produttività e al riparo da uno Stato che intermedia così tanto reddito nazionale e lo fa con prezzi, tariffe amministrate, finte gare, condizioni di acquisizione di beni e servizi intermedi costruite ad hoc per gli amici degli amici, guardate che ci sono migliaia e migliaia di imprese che vivono al riparo di tutto questo, e vivere al riparo di tutto questo significa pagare prezzi e avere costi inferiori o comunque di favore rispetto a quelli dei concorrenti che subiscono il morso del mercato, stare in piedi spesso come altrimenti non ci starebbe in piedi senza avere un riferimento con non solo i politici della casta ma le tecnocrazie pubbliche e così via, quelli degli stipendi che non trovano paragoni in nessun paese avanzato e soprattutto non hanno obiettivi di misura noti ex ante, affidati loro da realizzare e poi misurati ex post. C'è una parte che riguarda alcuni milioni di italiani che vive al riparo di questo meccanismo, tranne il fatto che poi dicono sempre che è colpa degli altri, e per questo che io mi scandalizzo di fronte all'esito di molte parti del decreto liberalizzazioni, che fa una marcia indietro clamorosa sul già troppo poco secondo me che c'era all'inizio, e mi scandalizzo dei toni che la grande stampa usa nei confronti del mondo delle professioni. E faccio gli esempi perché oggi c'è il Corriere della Sera e lo dico a un amico, ma non si può scrivere che sono assediati e si sentono trattati a schiaffi le professioni del nostro paese, hanno riottenuto tutto, ripeto, finché si tratta del gruppo di giornali concorrente del Sole 24 Ore, il gruppo Class, per loro è una questione di fondo, o glieli comprano loro i giornali o nessuno, e quindi vabbè, uno lo sa e non si scandalizza, ognuno fa il mestiere suo. Ma come facciamo dopo la sacrosanta riforma delle pensioni a dire che agli avvocati a cui abbiamo consentito di non pagare neanche i tirocinanti quando potevano fare il tirocinio a scuola e non li obblighiamo neanche a fare il preventivo ex ante, e poi le tariffe minime certo continuano ad essere abrogate, se non che il Tribunale di Roma ieri le ristabilisce perché dicendo certo però i magistrati sono d'accordo sul fatto che questo è il prezzario minimo per il contenzioso giudiziale, il che ovviamente dire significa che i magistrati sono d'accordo sul fatto che il Parlamento può decretare quello che vuole, tanto le tariffe minime restano. Ecco, come si fa a dire che c'è una parte del paese che deve continuare a stare come prima, mentre il resto se la deve prendere al fondo schiena? Io sono d'accordo, l'esempio è disallineare le alleanze sociali, ci proveremo, siamo non troppi, ma questa è la nostra convinzione. Ci ripartono i Doors. Chiedo anche a Sandro Brusco in conclusione, come ho chiesto a Michele Boldrin, qual è la sua opinione, l'agenda delle cose fattibili perché si verifichi questo riallineamento delle priorità sul versante dell'offerta, secondo te per che cosa passa, per non essere equivocati? Fammi prima fa un chiarimento. L'ascoltatore che ha chiamato prima ha detto una serie di cose anche condivisibili, però a un certo punto ha usato questo trucco retorico che uso sempre, che sento sempre usare in Italia, che contrapponendo i redditi da lavoro dipendente e da pensione a quelli da capitale, tutto il resto, diciamo. L'andamento dei redditi da pensione è stato molto diverso da quello dei lavoratori dipendenti, esatto, in questo paese. Le pensioni sono state sostanzialmente protette. Guarda, si può anche essere contenti di questo. Come ho detto prima, la verità è che il nostro sistema ha protetto molto bene gli anziani dalla povertà, per esempio, e li ha sostanzialmente eliminato il fenomeno della povertà per gli anziani. Basta essere coscienti che questo lo stiamo facendo anche non facendo nulla per le famiglie povere e giovani, e quando la coperta è corta i soldi mancano, se i soldi si mettono da una parte finisce che non ci sono dall'altra. Corretto, hai ragione. E per quanto riguarda poi, sai, è abbastanza facile dire che bisogna ricombinare i ceti sociali, bisogna ricostruire una nuova alleanza tra produttori. Io purtroppo non sono tanto giovane, francamente questa cosa del patto tra produttori la sentivo, e siccome infatti lo so che la pensi così, per questo ti ho passato la palla finale. Esatto. Sai, la verità è che i riallineamenti, se ci sono, ci sono in tempi di crisi, quando diventa assolutamente urgente smuoversi dalle antiche certezze. Quando, per esempio, oggi. Esattamente, per esempio oggi, che è la ragione per cui, anziché starmene chiuso nel mio ufficetto a scrivere paper, che è un'attività, è l'attività per cui che mi sono scelto, che certo, mi sembra molto divertente, ogni tanto provo anche a dare un contributo. E invece siete qua che dite sì a questo rompiscatole che vi ruba ore e che non sono retribuite. Io sono molto grato a Sandro Busco e a Michele Boldrin. Noi rompiscatole però continueremo, il tempo per oggi è finito, domani andremo sull'auto, crisi dell'auto comparata in tutto il mondo, e spero che non vi siate annoiati, che siamo stati comprensivi a tutti, comprensibili a tutti. A domani.